6C. Ascolta e rispondi. È il tuo cognome? Sì, è il mio. È il tuo foglio? Sì, è il mio. È la tua firma? Sì, è la mia. È la tua agenda? Sì, è la mia. È il tuo passaporto? No, è il suo. È il tuo professore? No, è il suo. È la tua macchina? No, è la sua. È la tua pianta? No, è la sua.